per il nostro streaming, credo funzionante, www.ondarossa.info. Questo spazio ha anche una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione / disorder. E il palinsesto di oggi prevede alle 22:30 circa, 25 o'clock. E quindi andiamo ad iniziare con l'ennesima capatina in quel del Belgio attraverso questa compilation Belgium Experimental Underground 70 Survey, una compilation ideata naturalmente da Raffaele Pezzella e che racchiude il meglio della scena, diciamo, più sotterranea proveniente da laggiù. E questa sera è il turno dei Fishers con questo Porte numero 3. Anche oggi abbiamo iniziato con questa compilation dedicata al Belgio. Ricordiamo l'ennesimo compendio ideato da Raffaele Pezzella, musicista e produttore vivente a Napoli, ormai vecchia conoscenza di questi spazi di Radio Onda Rossa. Fishers con Ludovic Mederi, sotterraneo ma in realtà già operante da 15 anni circa. Il Belgio è uno sterminato, a dispetto dei confini geografici, uno sterminato territorio musicale riguardante l'elettronica e la sperimentazione in genere. Salutiamo Alessandra qui da Roma, Gabri Edvi from London, Enrico Carrino da Battipaglia se non erro, lo stesso Raffaele Pezzella da Napoli, Marolino Stancati dalla Calabria, Antonio da Firenze. Anche stasera avremo parecchi artisti italiani. Uno di questi è Artico Culto con Dario Neri e Stefano of Lawrence. Tracce sparse in diverse compilation qua e là, e qui abbiamo una raccolta delle raccolte, se vogliamo, passatemi il termine. E questa sera dunque per Artico Culto ci ascoltiamo Il Sogno di Katia, da una compilation che porta il nome Misteria e un inedito After Autopsy. Thank you. da Torino dunque, Artico Culto. E come viene anche giustamente notato dal buon Antonio, le influenze soprattutto di Lastmord sono tangibili in queste due tracce di Dario Neri e Stefano Florence, Artico Culto. Come sono tangibili le influenze culturali provenienti dal Nord Europa che pervadono nelle tutte le tracce di questo lavoro. Si va a salutare Fulvio Biondo di Solar Lodge e il buon Giovanni Leonardi di Carnera, che tra breve manderemo anche, già che è presente nelle nostre selezioni. Un saluto a entrambi. Rimaniamo in Italia e l'impatto e l'attitudine è abbastanza diversa. Il suono si fa molto più percussivo e protagonista, vero e proprio uomo macchina e percussione, è lo stesso Yosonu. Io sono qui con questo ultimo lavoro dal nome Happy Loser. Ci ascolteremo Respira e Ere Nere. Da notare che nel un paio di brani di questo lavoro c'è la presenza di Paolo Tofani. Ovviamente Paolo Tofani non ha bisogno di presentazioni, 73enne, ex membro degli Area. He's the third planet from the sun. Earth, he's the third planet from the sun. Earth, he's the third planet from the sun. Era dunque Io Sono di Giuseppe Costa, artista proveniente dalla Calabria. Eccolo qua che prosegue con queste pulsazioni ultra minimali. Invece ci siamo ascoltati due esempi di vero e proprio tribalismo e delirio percussivo, che giustamente il buon Antonio lo ha anche associato una cosa che io devo dire lì per lì non avevo pensato, sia per esempio un certo tipo di elettronica, la Pankow, quindi la storia di una certa EBM, qui è condito da un tipico sapore mediterraneo, data anche la provenienza di Giuseppe Costa. Happy Loser dunque, questo lavoro uscito proprio all'inizio di quest'anno. Come all'inizio di quest'anno esce lo splendido lavoro, secondo album di Carnera di Giovanni Leonardi, un album che guarda con un'ampia apertura verso diverse sonorità, un po' Laibach, un po' ambient, un po' IDM, un album forse leggermente più elettronico rispetto all'esordio. E questa sera ci andiamo ad ascoltare proprio il brano che dà il titolo all'intero album, poi KSD 6M e Common One, o comune numero 1, a seconda che lingua vogliamo usare. l'azione con delle brigate rosse. Maracan, 25 anni, nata a Sant'Agna Andrea, laureata in sociologia, cattolica. Si unisce in matrimonio con Renato Croce. Morirà nel 1975 in uno scontro a fuoco con i carabinieri. Paola Besuschio, nata a Verona, 23 anni, laureata in sociologia. Sarà al centro di un'ipotesi di scambio durante il sequestro Monaco. Giorgio Semeria, nato a Milano, 20 anni, ex studente di ingegneria, entrerà nelle Brigate Rosse dopo un periodo di attività nei campi. Ex militante del Partito Comunista. Alberto Franceschini, nato a Reggio Emilia, 23 anni, ex studente di ingegneria, organizzerà il segreto del giudice Mario Sossi. Prospero Gamilani, nato a Reggio Emilia, 19 anni, operaio, parteciperà al segreto nuovo. Roberto Olmedo, nato a Reggio Emilia, 16 anni, inizia la militanza politica nella Federazione Giovanile Comunista, che abbandonerà per entrare nelle Brigate Rosse. Operai della Sicilia. Mario Bonetti, 23 anni, perito industriale. Giungerà al vertice dell'organizzazione dopo la chiusura dell'Alti Calisperici. Sarà l'artefice principale del sequestro. Corrado Alumar, 23 anni, romano. Lascerà le Brigate Rosse per dare vita ad un'altra formazione combattente. Alfredo Morvisa, 24 anni, nato ad Avellino, operaio del Reggio. Parteciperà al sequestro del dirigente di Media e Torino. Nella primavera del 70 appaiono dei bambini che sono in briga fuori. Mi ha disegnato un accidente per terra di vita. E non ho più pensato di guerra civile, ma non mi sono sentito mai. Non mi sono sentito mai. Non mi sono sentito mai. Non mi sono sentito mai. Non mi sono sentito mai. Non mi sono sentito mai. Non mi sono sentito mai. Il pezzo è un consigliere triste soprattutto di guardioni aziendali, con dei ritenanti in sabbia di ridenti bastanti e accanti da parto a massimo, da mettere con il tutto, thank you. Ancora dalla notte della Repubblica di Giovanni Leonardi, Carnera. Eccellente album, ancora una traccia. Onda Rossa 87.9 con prove tecniche di trasmissione. Parecchi minuti dedicati a Carnera, ma ne è valsa effettivamente la pena per questo album, uno dei lavori più geniali di questo 2017. La notte della Repubblica, uno spaccato della nostra società. Il fenomeno, per esempio, della lotta armata e altri aspetti che hanno caratterizzato l'Italia nel dopoguerra. Album eclettico, vario, costruito perfettamente nelle differenze tra un brano e l'altro. Giovanni Leo Leonardi e Ivan Battaglia, Carnera. E lasciamo la notte della Repubblica e andiamo in Germania, dunque lasciamo per un attimo la scena italiana. Lui è Tedis, uno degli artisti ultimi approdati alla Galalcorro, etichetta, ricordo, formata e fondata da Aus Arafna. Questo è il secondo lavoro, Interrogation Gloom, la classica impronta minimal dark wave proprio di Aus Arafna, che ha condizionato in senso buono tutti gli artisti che hanno deciso di aderire alla Galalcorro. Questa è In The Box e poi la finale, Impostor.